Bordo Campo di Dario Ricci. Trentun anni, vicentina, infermiera, appassionata di lettura, ma soprattutto grande amante della montagna. È Cristina Castagna, l'ospite di oggi di A Bordo Campo. L'abbiamo scelta come nostra guida alla scoperta della grande montagna, dei grandi 8000 del mondo, perché Cristina è stata la più giovane donna italiana a conquistare un 8000, è stata l'unica donna finora a scalare il Makalu, 8463 metri. Insomma, una guida d'eccezione per scoprire le grandi montagne del mondo, ma anche e soprattutto dove sta andando l'alpinismo moderno. Cristina, spiegaci subito il perché del tuo soprannome. Sei soprannominata, so, il Grillo. Perché? Ma nasce da mio papà, praticamente. Lui mi ha soprannominato il Grillo in dialetto veneto, perché salto e faccio cri-cri. Di salto in salto però siamo arrivati piuttosto in alto, perché la tua grande passione direi che è lo scalare, e parecchio in alto, no? Siamo arrivati in cima a diverse montagne dell'Himalaya, poi Aconcagua, Makalu. Sei stata la prima italiana a conquistare proprio la vetta del Makalu, l'unica donna italiana a compiere questo record. Come è nata in te questa passione per la montagna? Ma la passione ce l'ho sempre avuta fin da piccola. Io abito vicino alle Piccole Dolomiti, quindi proprio vicino casa ho le montagne. E poi così con l'Himalaya, con l'alta quota, è nata proprio un po' prima del 2003. E ho visto che ci sono stata una volta e mi piaceva, mi sono trovata bene, non sono più riuscita a rimanere a casa. Beh, direi che la prima conquista importante l'hai avuta in Sud America, no? Aconcagua, proprio 2003, 6.962 metri. Come si costruisce un'impresa di questo tipo, una scalata di questo tipo? Si lavora più sul fisico, sulla tecnica, sulla testa? Ma per me ci vuole un po' tutto, più che altro sì, allenamento, poi anche importante avere, riuscire a trovare il tempo per andare, sicuramente anche avere la compagnia giusta, perché anche sulla Aconcagua eravamo un gruppo di amici, quindi è stato importante anche quello. Per me è molto importante le persone anche con cui vai via, vai in spedizione, devi stare bene, fa tanto insomma. Ecco, tu hai compiuto queste ascese sempre in spedizione, non mai in solitaria? No, io sono sempre andata in spedizione. Adesso è un paio d'anni che vado con, siamo in due, io e Giampaolo Casarotto. Quindi non mi piacciono le spedizioni grandissime, non mi piacciono gli 8000 molto frequentati, ricerco sempre quelli dove c'è un po' meno gente. Rispetto all'alpinismo moderno, direi che si è sviluppato questo tema di dibattito, no? Il fatto che le grandi montagne siano diventate sempre più accessibili a un numero sempre maggiore di alpinisti, tanto da portare a parlare quasi di un turismo di massa, tra virgolette, degli 8000. Come vedi, da appassionata, da amante della montagna, questo fenomeno, come lo valuti? Io credo esistano ancora 8000 dove non si trova tanta gente. Sicuramente le montagne come l'Everest, come il Choyu, che sono diventate abbastanza commerciali, non sono bei luoghi, non è bello, non è che approvo le spedizioni commerciali. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Insomma, se uno magari ha visto il suo più grande sogno è di andare in vetta all'Everest, se lo fa l'ossigeno spendendo miliardi di soldi, insomma, deve fare, ognuno è libero, insomma. Sicuramente bisogna avere rispetto della montagna e non stupirsi quando succedono gli incidenti, perché in fondo la montagna è sempre quella, quindi non è che perché 100 volte va bene deve andare bene anche la 101ª, non è detto. Tra l'altro, proprio alcune delle montagne che hai affrontato con successo, la Aconcagua e il Makalu, sono state tragico scenario in questi ultimi mesi di alcuni incidenti mortali che hanno visto coinvolti anche alpinisti italiani. Che effetto ti ha fatto apprendere queste notizie, vedere queste spedizioni concludersi così, di fatto in tragedia? Diciamo che quest'anno si è parlato tanto degli 8.000, insomma, degli Himalaya dal punto di vista negativo, insomma, per gli incidenti che sono avvenuti. E da un lato è stato un bene perché si è parlato magari di montagna quando prima se ne parlava poco. Dall'altro lato, per mia opinione, se ne è parlato sempre in maniera negativa. Invece gli incidenti sono sempre successi, sicuramente aumentando il numero di persone che vanno in montagna aumenta anche il numero degli incidenti, quindi è una cosa naturale. Ma aumenta anche il livello di impreparazione di alcuni alpinisti improvvisati, secondo te, a partire dalla tua esperienza? Sì, forse si sottovaluta un po' i pericoli che ci sono in montagna, vengono un po' sottovalutati, perché si ha forse la tendenza, vedendo che c'è tanta gente, si pensa che allora è un posto sicuro, però è il primo errore, insomma, non è detto. Una cosa che mi ha colpito anche delle tue imprese, i tuoi fallimenti, chiamiamoli così, no? Perché mi sembrano intrisi di saggezza e rispetto per la montagna. Ad esempio, il tuo primo tentativo sull'Everest, quando a 7800 metri hai detto meglio tornare indietro, sarà per un'altra volta. Ecco, quando la meta è così vicina, si riesce ad avere la lucidità di dire queste frasi che rappresentano il confine tra la sicurezza e il rischio estremo? Mi è capitato sull'Everest, mi è capitato anche sull'Ozze, ancora più vicini, insomma 8100, quindi sicuramente è difficile, credo per qualsiasi alpinista, perché si lavora tutto un anno per un unico giorno in cui, se non hai la giornata giusta o se il tempo non è quello giusto, devi rinunciare. Un mio amico diceva sempre che le montagne non hanno le gambe e io sì, e quindi si può sempre scappare e tornare un'altra volta. Bene o male le ritrovi là, insomma. Esattamente, rimangono sempre là per un'altra volta. Beh, questa è, mi sembra, una riflessione preziosa alla luce di quelli che invece sono stati gli tragici ultimi mesi a quelle quote. Ma appunto, quando si arriva là sopra è più forte il senso della sfida o prevale invece il senso del rispetto per questa montagna che alla fine non credo che tu riesca mai a vincerla, no? Credo che nel migliore dei casi ci si sente un ospite accettato a quelle altezze. Io credo che se ci si mette a sfidare la montagna si è già perso in partenza, perché è una cosa impossibile. Lei sicuramente sarà sempre più forte, tra virgolette, di noi. Per conto mio si può fare una sfida con se stessi, si può avere i propri obiettivi, solamente questo, insomma. E in più devi amarla e soprattutto rispettarla, ecco, perché forse abbiamo un po' perso questo rispetto, insomma, per la montagna. Nelle tue parole vedo anche, mi sembra di intuire, anche la preoccupazione per il rispetto dell'ambiente, no? di queste montagne che è sempre più minacciato. Ricordo nei mesi scorsi, ad esempio, il governo cinese aveva ipotizzato di costruire un'autostrada che portasse fino ai 5-6 mila metri sull'Everest in occasione delle Olimpiadi. Insomma, credi che sia un patrimonio ancora difendibile quello himalayano, più in generale quelle delle montagne in alta quota, o siamo in qualche modo destinati a rassegnarci a vederlo piano piano erodere dall'azione umana? Ma io credo che bisogna difenderlo, ma credo anche che la natura riesca a difendersi bene da sola. Non credo che se i cinesi riuscissero a costruire un'autostrada questa rimarrebbe in piedi per tanto tempo, perché sicuramente la natura qualcosa farebbe per impedirlo. Quindi, insomma, è un continuo braccio di ferro. Ma vedere la fiaccola olimpica in cima all'Everest, abbiamo visto che i cinesi, proprio in vista delle Olimpiadi, hanno tentato l'impossibile, alla fine ci sono riusciti a portare il sacro fuoco di Olimpia, il simbolo della fratellanza fra i popoli, sull'Everest, con tutte le connotazioni politiche che aveva, vista la questione tibetana aperta. Ecco, che effetto ti ha fatto? Guarda, io credo che se loro fossero stati onesti e avessero lasciato che anche gli altri alpinisti salissero l'Everest nello stesso periodo, magari avrebbe anche avuto un senso dal punto di vista sportivo, però fatto nel modo in cui l'hanno fatto, impedendo la scalata agli altri alpinisti, era bloccato dal campo 2, non si poteva salire. Non credo che sia stata una cosa sportiva, insomma. Dopo, riguardo anche tutta la situazione tibetana, ormai è storia, insomma, non credo serva aggiungere altro. Tu che conosci però bene quella realtà, essendo insomma quello il punto da cui parti per alcune di queste imprese, qual è la sensazione che si respira tra la gente? Credi che sia possibile poi una soluzione politica, un venire a patti tra Pechino e il Tibet? Ma il Tibet là c'è una dittatura e, come abbiamo visto, sì, c'è stato un po' di movimento, però al momento ora non ne parla più nessuno, no? E quindi credo che alla fine l'avranno comunque vinta loro. Non penso, il Tibet non è abbastanza ricco e abbastanza interessante per gli occidentali, e quindi rimarrà com'è, per conto mio. Pensi che per una donna sia più difficile arrivare così in vetta? E chiaramente non alludo solamente alle maggiori difficoltà dal punto di vista fisico, alle differenti preparazioni. Credi che sia anche quello dell'alpinismo un ambiente in qualche modo caratterizzato da pregiudizi nei confronti delle donne? Ma io credo che qualche pregiudizio magari c'è, però abbiamo sicuramente il carattere e la forza per eliminare questi pregiudizi, insomma. Credo che anche con Nives Marroy abbia, e con le altre che comunque fanno alta quota, abbiano dimostrato che la donna può arrivare ovunque, insomma. Forse ci vuole più impegno, forse lo fa in maniera diversa, perché sicuramente non vogliamo essere uomini, però ci si può arrivare. Insomma, c'è una via tutta femminile agli 8.000, diciamo così. Io credo che la via sia aperta, anche perché è un mondo tutto da scoprire, per conto mio. L'alpinismo in genere è tutto da scoprire dal punto di vista femminile. A bordo campo. Bicycle. I want to ride my Beh, è musica inconfondibile quella di Bicycle Race dei Queen, e che non lascia dubbi. Parliamo di bicicletta oggi a bordo campo. Anzi, di più, di grandi campioni del ciclismo azzurro, soprattutto paralimpico. Due di loro, Fabrizio Macchi, bronzo nell'inseguimento ad Atene 2004, e Fabio Triboli, un oro nella prova su strada e due bronzi alle Paralimpiadi di Pechino 2008, hanno dato infatti vita a Moveo, un'associazione che ha l'obiettivo di sostenere l'attività professionistica degli azzurri della Nazionale Paralimpica e, al tempo stesso, anche quello di diffondere la cultura dello sport tra i giovani diversamente abili. E proprio Fabrizio Macchi, 39enne varesino, cui l'amputazione di una gamba nel 94 a causa di un tumore non ha spinto certo l'amore per le due ruote, ci racconta com'è nata Moveo. Ma questa associazione in realtà è nata da un'idea mia che ho avuto nei giorni, come posso dire, di relax delle Olimpiadi di Pechino, così facendo un ragionamento, pensando a tutti noi che si prendeva delle medaglie, Fabio Triboli che ha vinto la medaglia d'oro e torna a casa e il giorno dopo andava al lavoro o comunque qualche giorno dopo. E questa cosa mi faceva sorridere, una cosa molto particolare, molto strana, se si pensa che comunque un atleta normalo tanto che vince un'Olimpiade, è impensabile che il giorno dopo vada in fabbrica a lavorare. C'è la voglia, la volontà di trovare da metterci insieme team sportivo dove raccoglie atleti singoli, sostanzialmente atleti che non fanno sport di squadra e che vogliono raccogliere dei fondi per cercare comunque di fare il più possibile il professionismo senza andare a lavorare e centrare gli obiettivi importanti, ecco. Molti gli amici che Moveo sta già incontrando per strada, tra questi alcuni testimonial d'eccezione come Davide Rebellin, 37 anni, bandiera del ciclismo azzurro e argento su strada proprio a Pechino 2008. Credo che sia una bellissima iniziativa, perché comunque bisogna valorizzare questi ragazzi. Alle Paralimpiadi dell'anno scorso hanno preso tantissime medaglie ed è giusto valorizzare queste medaglie. hanno messo il massimo del loro impegno per ottenere un qualcosa di importantissimo, un riconoscimento, e soprattutto hanno portato in alto il nome dell'Italia, della nazionale italiana. Ed è giusto che possano realizzare i loro sogni, i loro obiettivi, i campionati del mondo fino giusto alle prossime Olimpiadi di Londra, senza intoppi, aiutandoli nelle loro attività, senza problemi e senza difficoltà. Per esempio, non tutti sanno che sono corridori atleti della nazionale, in questo caso ciclisti, quello che ho conosciuto io, che però dopo l'allenamento devono andare a lavorare appunto per poter vivere, quindi si cerca di dare una mano a loro in modo che possano fare veramente questa loro attività una professione vera e propria, e possono appunto realizzare i loro sogni, ecco. È Fabio Triboli, trascinatore della spedizione paralimpica azzurra a Pechino, a spiegarci gli obiettivi di Moveo. Il nostro primo obiettivo è quello proprio di far conoscere a ragazzi che hanno avuto problemi come noi, che hanno avuto degli incidenti, dei traumi, e cercare di farli credere in se stessi. In più, anche divulgare dello sport disabili e anche della situazione dei disabili nelle scuole di ragazzi normodotati, e cercare di creare una società un po' migliore nei riguardi di, appunto, delle persone disabili. Questo è uno dei nostri intenti primari, ecco. La nascita della nuova associazione arriva in un momento in cui più forti si fanno i legami tra la Federciclismo e il mondo dei pedali paralimpici. Il presidente della Federciclismo italiana, Renato Di Rocco. Di fatto già negli anni passati questa collaborazione esisteva, perché molto spesso gli atleti venivano inseriti o nelle gare nel calendario nostro insieme ai normodotati, e molto spesso, soprattutto per le attività su pista, facevano dei raduni insieme alla nostra nazionale, per cui non ci sarà differenze, vengono integrati nel nostro sistema. Ci sarà un gruppo specifico che si occuperà di loro, la nostra commissione, e saranno come una nazionale normale dell'atlociclismo. Abbiamo una nazionale ciclocross, una della pista, una delle donne, una dei juniores, una dei professionisti e degli under 23, per cui avremo anche la nostra nazionale paralimpica. Devo dire che i ragazzi li ho trovati molto soddisfatti, sono stato 2 giorni con loro e c'è un bel clima, e sono ragazzi che, onestamente, me lo lasci dire, danno molto a noi, e forse fino ad oggi noi abbiamo dato troppo poco a loro, però hanno un entusiasmo, hanno motivazione, sono molto determinati, e devo dire che questo progetto così ha dato altre motivazioni per fare sempre di più e sempre meglio, ma soprattutto per far conoscere le loro difficoltà e i loro problemi nel dover fare attività. Insomma, una su tutti è che magari ci sia un vincitore olimpico che poi deve prendere ferie o continuare a fare la sua attività lavorativa per poter svolgere attività sportiva, questo è in senso lato un po' per tutte le discipline, e evidentemente questo ha colpito anche noi per quanto riguarda il ciclismo. Del resto, metodi di allenamento, tecniche di lavoro, esperienze comuni rappresentano già un patrimonio largamente condiviso tra ciclisti paralimpici e normodotati, come ci ricorda Rebellin. Sì, mi sono allenato qualche volta, sì. Una delle ultime volte ero con Fabrizio sul percorso del mondiale di Mendrisio, del mondiale di ciclismo di quest'anno. E lo sport è lo stesso, il ciclismo è uno sport di fatica, di impegni, di sacrifici, e loro hanno più o meno la tecnica è lo stesso, ecco, hanno gli accorgimenti per i loro problemi fisici, però la gesta atletica è lo stesso, sia nel cronometro che nelle gare su linea, in linea e in pista, perciò le esperienze che abbiamo più o meno si avvicinano, certo io magari avendo contatti, essendo un parecchi anni nell'ambiente professionistico, posso avere più contatti con altre persone, con tecnici o specialisti nel settore, che magari posso dare una mano a loro, possono anche loro a sua volta dare una mano ai ragazzi, ecco. Perciò credo che una collaborazione sia il minimo che si possa fare, poi soprattutto far conoscere appunto quello che stanno facendo questi ragazzi. Intanto i prossimi giochi olimpici estivi, quelli di Londra 2012, potrebbero essere i giochi di Oscar Pistorius, lo ricordate, lo sprinter sudafricano che con le sue gambe in fibra di carbonio potrebbe finalmente gareggiare con i normodotati dopo le polemiche e la mancata qualificazione per Pechino. Fabio Triboli ha le idee chiare in proposito. Un atleta disabile chiaramente ha delle difficoltà, ma se riesce a raggiungere dei risultati che può competere con gli atleti normodotati, ben venga. Per me questo è lo spot dello sport puro. Ci sono risultati, si va avanti, e se no si fa le Paralimpiadi, che non sono Olimpiadi di serie B, ma chiaramente Olimpiadi di persone che hanno delle difficoltà. Tutto il punto. Io Pistorius ci sta facendo una grossa pubblicità, lo ringrazio, però lui, se riuscirà a strappare il tempo, è bene che lui corra con i normodotati, e se no verrà a fare le Paralimpiadi e noi saremo contenti. E se in futuro anche nel ciclismo la tecnologia permettesse a diversamente abili e normodotati di gareggiare insieme, Davide Rebellin lascia la porta aperta. Ma sicuramente sarebbe una bella cosa, credo, dare la possibilità a tutti di poter competere anche con i normodotati. E certo, con la tecnologia si possono ottenere moltissimi risultati, basta non andare oltre quello che è che può dare vantaggi ulteriori a quello che può dare un fisico normalmente, ecco. Però credo che dare la possibilità e soprattutto aiutare tramite la tecnica e la scienza cercare i risultati migliori anche per loro, credo che sia utile, perché no, anche poter gareggiare con le massime categorie dei vari sport, ecco. Intanto però c'è ancora molto da pedalare, ci ricorda il fondatore di Moveo, Fabrizio Macchi. L'appuntamento sì, è per l'Onda 2012, passando da almeno un paio di campionati del mondo e di Coppe del Mondo, quindi insomma c'è tanto da lavorare, c'è tanto da pedalare, quindi credo che questa neonata associazione possa veramente dar vita a un movimento molto particolare e carico di entusiasmo sicuramente. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Giorgio Matè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it e scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it.